Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Martedì 28 gennaio 1986. Sono le 11:38 del mattino. Siamo al Kennedy Space Center in Florida. È una mattina rigida. Le temperature non sono quelle che ci si aspetterebbero. Nonostante questo, una folla numerosa è riunita sulle tribune in attesa del lancio del Challenger, la 25esima missione del programma Space Shuttle della NASA. A bordo, tra gli astronauti, per la prima volta c'è anche un civile. Per l'esattezza, è una professoressa, che quel giorno incontrerà il proprio destino, dando seguito al destino di un'altra persona. Quelli che avete appena sentito sono i 18 studenti arrivati dal New Hampshire per assistere in diretta alla missione spaziale della loro insegnante di scienze, Krista McAuliffe, che inaugura con quel volo il Teacher in Space, un programma fortemente voluto nel 1984 dall'allora presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan per stimolare le nuove generazioni sulle esplorazioni spaziali. Oggi sto indirizzando la NASA ad iniziare una nuova ricerca in tutte le nostre scuole elementari e superiori, spingendola a selezionare il primo cittadino civile nella storia del nostro programma spaziale, una delle eccellenze americane, un professore. Nelle mani dei ragazzi accorsi per vedere lo spettacolo, uno striscione con la scritta Go Krista. C'è molta emozione là fuori per chi guarda quella navicella che lascia il suolo e molta attenzione per chi gestisce l'operazione al centro di controllo. T-minus 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. And liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Le fasi di lancio e atterraggio sono come sempre le più delicate. L'equipaggio è costantemente in contatto con la base per monitorare ogni piccolo dettaglio. Il decollo, quel 28 gennaio del 1986, segue le normali procedure dello shuttle, ma qualcosa comunque non va per il verso giusto. Forse però occorre fare un passo indietro. Lo Space Shuttle è il veicolo spaziale più versatile e avanzato che esista. È un incrocio tra un razzo, un veicolo orbitante e un aereo. Ed è il primo veicolo spaziale riutilizzabile, abbattendo così enormemente i costi dei viaggi spaziali. Per il Challenger quello è il decimo viaggio. I primi studi sulla navetta iniziano negli anni 70, subito dopo la fine del programma lunare, e il primo lancio avviene nel 1981 con lo Shuttle Columbia. First venture into space, two American astronauts are poised and waiting to add a new dimension to space travel. John Young and Bob Crippen are in the cockpit of the Space Shuttle Columbia, ready to ride her into orbit and fly her back to Earth. Dopo il Columbia ci sono state altre quattro navicelle che prendono il nome da famosi vascelli del passato. Il Challenger, di cui parliamo oggi, il Discovery, l'Atlantis e l'Endeavour. Tecnicamente lo Space Shuttle è composto da tre elementi: la navetta, il serbatoio principale e due razzi a combustibile solido. Gli astronauti vengono fatti entrare nella cabina circa tre ore prima del lancio. Da qui comincia il conto alla rovescia. Da quando si chiude il portellone inizia uno scambio fitto di informazioni via radio con il centro di controllo. Quando il conto alla rovescia è al 6, si accendono i motori principali. Quando è a 0, i bulloni che hanno tenuto fermo lo shuttle alla rampa di lancio sino a quel momento vengono fatti esplodere e contemporaneamente si innescano i due razzi affinché lo shuttle cominci la sua salita. Ma quel 28 gennaio il razzo destro ha un guasto a una guarnizione che a causa delle basse temperature ha perso la sua elasticità e provoca la fuoriuscita di fiamme. Dopo soli 73 secondi dal decollo, avviene un'esplosione. Good morning everyone. There appears to have been a very serious accident involving the Space Shuttle Challenger. Come annuncia il giornalista della ABC, il lancio è stato rimandato varie volte. È stato programmato per il 22 gennaio. Poi una serie di problematiche dovute alle cattive condizioni atmosferiche e al malfunzionamento del sistema antincendio durante il rifornimento l'ha fatto slittare di giorno in giorno sino a quel fatidico martedì 28 gennaio. Difficile arrestare la corsa verso il progresso, soprattutto in una nazione dove la conquista dello spazio è da anni una sfida ideologica oltre che scientifica. A maggiore ragione nel pieno della guerra fredda come in quel 1986. È il segno dei tempi. Quella missione del Challenger inaugura, come già anticipato, il programma Teacher in Space, portando a bordo una professoressa che avrebbe dovuto tenere alcune lezioni di scienze dallo spazio. 11.000 gli insegnanti che hanno partecipato alle selezioni. NASA has chosen the first teacher to go into space. She comes from New Hampshire. And the winner, the teacher who will be going into space, Krista McAuliffe. Il 19 luglio del 1985 viene scelta lei, Krista McAuliffe. E quando il vicepresidente d'allora, George Bush, dà l'annuncio, lei esita un attimo, incredula. Insieme a lei, alla Roosevelt Room della Casa Bianca, altri 10 finalisti. Bush le stringe la mano. L'emozione è fortissima, lei non ha parole. Strano per una professoressa. Eppure quelle che vorrebbe dire ai milioni di americani che la stanno guardando in diretta TV le si strozzano in gola. I've made 9 wonderful friends over the last 2 weeks. Ho trovato 9 splendidi amici nelle ultime 2 settimane. E quando lo shuttle partirà, anche se ci sarà solo un corpo, io porterò con me 10 anime. Grazie. Da quel giorno comincia per Krista una nuova vita. È stata selezionata per essere la prima professoressa nello spazio, la prima civile, una donna. Rappresenta l'America intera, il sogno di una nazione che si realizza. Lo spazio è cosa di tutti e non solo degli astronauti. Quella missione, forse, era già scritta nella sua biografia, lei che non ha mai avuto paura delle sfide. Così la descrive Charles Foley, il preside della Concord High School, dove Krista insegna. È una persona che si prende i suoi rischi, si butta nell'insolito anche nel modo in cui gestisce la classe. Non ha paura delle cose che le succedono. Lei le vive, non ha paura. Sharon Krista McAuliffe è una donna di 38 anni e da 12 insegna scienze al liceo. Nasce il 2 settembre del 1948 a Boston. È la prima di 5 figli e questo la fa crescere con un forte senso di responsabilità. La madre, impegnata nel sociale, le trasmette l'amore per gli altri, per il bene degli altri. Quale professione più adatta se non quella dell'insegnante, pensa Krista, dove si può essere utili e fare del bene alle nuove generazioni. Da bambina, alla classica domanda «Cosa vuoi fare da grande?», Krista risponde «Potrei fare l'infermiera, l'insegnante o la hostess, nient'altro». Il futuro, in un certo senso, le darà ragione. Insomma, ha le idee chiare, da sempre. E anche quando a soli 18 anni si innamora dell'uomo che poi diventerà suo marito, Steve McAuliffe, è sicura all'istante che sia proprio lui. Ha incontrato Steve e basta. Lui era quello giusto, a lettere cubitali. Quello giusto. Così ne parla Anne, la sua migliore amica, ricordando anche quando nel 1966 viene selezionata dalla scuola a partecipare a New York a una conferenza sulle novità scientifiche tenuta da alcuni astronauti della NASA. E Krista al ritorno disse, penso che farò qualcosa del genere un giorno. Penso che un giorno andrò nello spazio. Tutti pensammo fosse pazza. Era il 1966 e nessuna donna era ancora entrata nel programma spaziale. Ma la sua vita è costellata di obiettivi che poi raggiunge. Ed è quello che cerca di trasmettere anche ai suoi studenti. Credere nelle proprie capacità, essere se stessi fino in fondo, senza paura, andare oltre l'immaginazione e puntare sempre più in alto. Solo così si può ottenere il massimo. come dice alla consegna dei diplomi ai suoi ragazzi dell'ultimo anno. Quest'anno è un anno speciale per voi, perché è il vostro ultimo anno alla scuola superiore, ma è l'inizio di quello che potrete fare nella vita. E dovete chiedervi quali sono le opportunità, cosa fare al college. Dovete chiedervi cosa posso fare, cosa voglio fare, e cercare di ottenerlo. Andate, spingete voi stessi il più lontano possibile. Quando Reagan annuncia all'America il programma Teacher in Space, Krista è davanti alla TV. Io e mio marito stavamo ascoltando l'annuncio e tutti e due allo stesso tempo abbiamo pensato: è ovvio che è una cosa che devo assolutamente provare a fare. Krista richiede tutte le informazioni necessarie per spedire il materiale e partecipare alla selezione. Racconta tutto al preside della sua scuola, chiedendogli di scrivere una lettera di raccomandazione. Mi dice: sai Charlie, sto partecipando alla selezione per il programma Teacher in Space. E io dico: ok, hai il supporto del tuo principale. Quindi potresti scrivere una lettera di raccomandazione? Certo che posso scriverla, dico. E aggiungo: spero che tu venga selezionato, perché sei realmente il miglior professore tra i partecipanti. E ho pensato: noi possiamo fare questo per Krista McAuliffe. Possiamo scrivere il meglio per lei. Le selezioni sono lunghe. Ci sono test psicoattitudinali, prove fisiche, settimane di duro lavoro. Krista supera ogni selezione intermedia senza problema. Mancano ancora mesi alla missione, ma è sicura di farcela. Spedisce una cartolina alla madre con l'immagine di due donne abbracciate sulla cima di una montagna e la scritta: dietro ad ogni grande donna c'è un'altra grande donna. Grazie mamma. Oltre ad essere la prima cittadina a visitare lo spazio, è anche una donna, ne è consapevole. Una doppia conquista. Krista lo fa per i suoi studenti, per la sua famiglia, per l'America. Krista lo fa per il mondo intero. Dopo la selezione, Krista diventa un'eroina nazionale. Ha ottenuto il posto perché, oltre a rispondere a tutti i requisiti fisici e mentali necessari per affrontare la missione spaziale, è anche una grande comunicatrice. Si muove bene tra la folla, ha doti oratorie particolari, sa farsi accettare. E questo non guasta se si è insegnanti e se si viene scelti come rappresentanti del sistema scolastico americano per un programma innovativo che parlerà al mondo intero. Mi piacerebbe umanizzare lo spazio, dando una prospettiva che non è quella dell'astronauta. Penso che gli studenti guarderanno la missione dicendo: questa è una persona comune, e anche le persone comuni possono contribuire alla storia. Tutto il New England, dove Krista vive e lavora, è fiero della sua cittadina. Tutta l'America lo è, la storia l'aspetta. Krista McAuliffe è una star, al pari delle star dello sport. Quello stesso anno, i New England Patriots, la squadra di football americano di casa, gioca la sua prima partita nel Super Bowl. Ricordo una grande folla intorno a lei. Di solito quando finisce una partita e sei un giocatore, la gente viene tutta intorno a te. Quella volta no, erano tutti da lei. Era una grande celebrità. Tutti vogliono conoscerla. Con un po' di invidia, anche Steven Grogan, quarterback dei Patriots, se ne rende conto. Lei adesso è un nuovo simbolo per l'America. È il sogno americano di chi, con la determinazione, riesce a ottenere ogni cosa. Lei ce l'ha fatta, avendo fiducia solo nelle sue capacità. Io l'ho fatto, senza avere la minima idea di quanto lontano mi avrebbe portato tutto questo. Ma l'ho fatto e sono arrivata lontano. Potete farlo anche voi. Tutti possono farlo, anche lei, una civile, una donna, una professoressa venuta dal New Hampshire. Lei, capace di rendere semplice e interessante ogni cosa che insegna, come ricorda un suo studente. È capace di trasformare concetti molto complessi e di renderli più semplici, in modo tale che gli studenti possano capire, ma in un modo più interessante. Ma è anche capace di inseguire un sogno e di portarlo a termine. Per questo l'America la adora, perché la rappresenta. Per questo la NASA l'ha scelta. Ma tra i 10 professori finalisti c'è anche un'altra insegnante che con Krista condivide non solo la professione, ma anche il sogno di salire sul Challenger. Barbara Morgan. Barbara Morgan, una professoressa dell'Idaho. Il destino delle due sembra essere già scritto quel 27 agosto del 1985, quando Bush consegna una piccola statua di bronzo a Krista, raffigurante un maestro e un allievo, con lo sguardo rivolto verso l'alto, come segno della sua vittoria. E subito dopo stringe la mano alla persona che le farà da riserva, Barbara Morgan. Da quel giorno anche Barbara partecipa all'addestramento deve essere pronta a sostituire Krista qualunque cosa succeda. Diventano amiche. Difficile non esserlo con Krista. Lei è una di noi, è una madre, una figlia, una vicina di casa. Parla col cuore della sua passione per l'insegnamento. Sono fiera di essere stata scelta in rappresentanza degli insegnanti. Credo che insegnare sia la professione più importante. Ci si deve impegnare molto per supportare i colleghi, le scuole e gli studenti. Non avrei potuto fare altro nella mia vita se non dedicarmi a rendere accessibile la conoscenza ai ragazzi, mettendocela tutta perché questa professione fosse sempre la più onorevole. Dobbiamo fare tutti del nostro meglio. Barbara la segue sempre, diventa amica della sua famiglia, simpatizza con i genitori e con i suoi figli. È un po' come se fosse il suo alter ego. Krista è magnetica e Barbara, di qualche anno più giovane di Krista, si lascia trascinare. Ancora non sa cosa significhino quelle sensazioni così forti nei confronti della collega. Ancora non sa che le loro vite sono legate a filo doppio. La vittoria di Krista la riguarda molto da vicino, più di quanto possa immaginare. E anche quando i giornalisti cercano di avere delle riflessioni a caldo sull'esito del concorso, Barbara si limita a sorridere, mentre Krista è già partita. I touch the future. I teach. Oggi Destini Incrociati è in America, a metà degli anni Ottanta. Il programma spaziale americano ha deciso di far salire a bordo della 25esima missione spaziale dello Shuttle una professoressa, Krista McAuliffe. Come riserva è stata scelta un'altra insegnante, Barbara Morgan. Il loro destino si fonderà indissolubilmente il 28 gennaio del 1986, al momento del lancio del Challenger. Ma le due donne ancora non sanno cosa c'è nel loro futuro. Per ora, una di loro dice di averlo toccato. Destini incrociati. Destini incrociati oggi è a Cape Canaveral, in Florida, al Kennedy Space Center. È il 28 gennaio del 1986, il giorno stabilito per il lancio del Challenger. Dopo numerosi rinvii dovuti anche al maltempo, alle 11.38 di quel martedì, la navicella decolla. Ma qualcosa non va come deve andare. A bordo dello shuttle per la prima volta un civile, Krista McAuliffe, una professoressa del New Hampshire scelta per inaugurare il programma Teacher in Space. Il volo è stato rimandato varie volte, prima per le cattive condizioni del tempo nel sito d'atterraggio di emergenza, poi per le temperature rigide sulla rampa di lancio, alquanto insolite per la Florida, infine per un malfunzionamento di un sistema antincendio. Ma alla fine si parte lo stesso. A bordo del Challenger, 7 persone, 6 astronauti e una cittadina americana, Krista McAuliffe. Non è l'unica donna a bordo, ma la prima civile sì. La prima presenza femminile in missioni spaziali è del 1963 ed è un primato ancora una volta russo. La navicella Vostok 6 ospita per 3 giorni la cosmonauta Valentina Tereshkova. Per avere la prima astronauta statunitense si deve aspettare il 1983 con Sally Ride. Eppure, nella corsa allo spazio tra America e Russia, cominciata quel lontano 1957, con il lancio dello Sputnik e con tutte le missioni successive che hanno visto Yuri Gagarin nel 61 come primo uomo nello spazio, c'è un progetto americano mai realizzato, chiamato Mercury 13. 13 donne selezionate dalla NASA che però non volarono mai. Alla base del fallimento del progetto, soprattutto pregiudizi e giochi di potere all'interno della comunità scientifica e della stessa NASA. A differenza dei loro colleghi maschi, piloti militari che potevano contare sull'appoggio dell'esercito, le astronaute statunitensi erano normali cittadine. Una di loro, Jerry Cobb, che aveva il doppio di ore di volo di John Glenn quando diventò il primo astronauta americano in orbita, ricorda di aver incontrato il vicepresidente Johnson e di essersi sentita dire: «Jerry, se noi apriamo il programma spaziale alle donne, dobbiamo farlo anche con i neri, con i latinoamericani e con tutte le altre minoranze, e questo non lo possiamo fare». Ma sono lontani quei tempi e molta strada è stata fatta da allora. La gente mi ferma per strada e mi chiede: quante fermate fa lo shuttle? Oppure mi porti un pezzo di luna? Krista sembra essere l'anello di congiunzione tra il mondo inaccessibile e complicato della NASA e la gente comune. Le persone che la incontrano sentono di poterle chiedere qualunque cosa. Con lei sullo shuttle è un po' come se salisse ognuno di loro, ognuno di noi. Le immagini delle sue esercitazioni in assenza di gravità, le sue risate e quelle di Barbara Morgan mentre volteggiano nell'aria fanno il giro del paese. Quella felicità scalda gli animi dell'America. Forse lo spazio non è solo sentimento di rivalsa nei confronti dell'Unione Sovietica, ma è anche sentimento di appartenenza alla nazione. E attraverso gli occhi di Krista può diventare un accesso privilegiato a un mondo migliore, più leggero, fatto anche di sorrisi e di capriole. Krista ci prendeva sempre in giro dicendo che avevamo scelto per la selezione gente dell'Idaho, dell'Arkansas, della Louisiana, perché eravamo i professori meno pagati di tutti i tempi. E la NASA voleva contribuire ai nostri stipendi. L'ironia e il buon umore sono le doti di Krista che, pur avendo una missione molto importante da compiere, non perde occasione di rimanere coi piedi per terra. Lei è una professoressa del New Hampshire e la sua seconda è una professoressa dell'Idaho. La scuola è la loro dimensione, gli studenti il loro vero pubblico. Anche questa esperienza serve per dare una nuova prospettiva all'educazione. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm. Il programma Teacher in Space prevede che si tengano delle lezioni nello spazio. Sia Krista che Barbara sono d'accordo sull'approccio. I ragazzi devono partecipare, anche se a distanza, agli esperimenti. Solo se si sentono coinvolti possono imparare. Krista ha le sue idee su come gestire le lezioni e cerca di esporle al comitato organizzativo della NASA, che le fa un sacco di osservazioni. Lei ha solo bisogno di avere un programma e poi, quando realizzerà l'esperimento, farà quello che sa fare, insegnare. Come ricorda Barbara. Non posso scrivere ogni singola battuta di quello che dirò, disse Krista, e noi ridemmo. Poi aggiunse, non sono un'attrice, non devo recitare, io sono un insegnante, dirò quello che un insegnante deve dire. Per Krista è importante non perdere la sua identità. L'hanno scelta perché rappresentasse i professori di tutto il mondo per insegnare dallo spazio. Nessuno la può fermare, se non il destino. Penso che nessun professore sia stato più pronto di quanto non lo sia io adesso per fare le mie due lezioni. Le sto preparando da settembre e spero che tutti si sentano coinvolti, anche se le tengo dallo spazio. Anche Barbara Morgan è emozionata. Segue Krista nella preparazione degli esperimenti. Potrebbero servirle qualora Krista non potesse salire sul Challenger. Ma il destino ha già stabilito che Krista, pur salendo sullo shuttle, non riuscirà a tenere le tanto agognate lezioni dallo spazio, lasciando però a Barbara quella preziosissima eredità. 10-9-8-7-6. We have main engine start. 4-3-2-1. And lift off. Lift off of the 25th Space Shuttle mission and it has cleared the tower. La madre di Krista ricorda l'ansia di quegli attimi che precedono il lancio. Mio marito quella mattina, dopo aver visto il ghiaccio che ricopriva il Kennedy Space Center, disse non possono partire, adesso vado là e me la porto via. Ma io dissi, lei non verrà mai. Lo shuttle parte lo stesso, nonostante le condizioni avverse del tempo. Il sogno di Krista si disintegra a poche miglia dal suolo. È il 28 gennaio del 1986. Il freddo atmosferico si mescola a quello emotivo. Ci sono tutti, i suoi genitori, i suoi figli, il marito, i suoi studenti. Tutti col viso rivolto verso il pallido sole a guardare quel mostro di fumo che si sta inghiottendo quel che resta del Challenger. Stupore, incredulità, rassegnazione. Nel cuore di tutti è entrato improvvisamente l'inverno con la sua prepotenza. Un inverno insolito per la Florida e che è stato fatale per lo shuttle. Ero sconvolta e mio marito era terribilmente arrabbiato che credevo gli sarebbe venuto un attacco di cuore. Nessuno sapeva cosa dire, cosa fare. C'era molta confusione. Nessuno sapeva niente. Poi in quel periodo i rapporti con la Russia non erano dei migliori. Così pensammo che forse loro potessero sapere qualcosa. Forse. Il freddo ideologico sembra allentare la sua morsa. Quello stesso anno, alle basse temperature dell'Islanda, comincia il disgelo dei rapporti tra Unione Sovietica e Stati Uniti. L'11 ottobre Gorbaciov e Reagan si incontrano a Reykjavik. Qui il leader russo annuncia la fine della dottrina Brezhnev, che permette alle nazioni del blocco orientale di tornare alla democrazia, e ne introduce una nuova, chiamandola scherzosamente dottrina Sinatra, riferendosi alla famosa canzone My Way, a modo mio. È il 1986. Col disastro del Challenger, il programma spaziale americano subisce una battuta d'arresto. Eppure i cieli non sono soli. Il 19 febbraio dello stesso anno, i russi lanciano la stazione spaziale Mir, per non rimanere indietro sulla corsa allo spazio. Lo stesso giorno, la cometa di Halley raggiunge il perielio, ovvero il punto più vicino al Sole. Il cielo adesso è anche di Christa McAuliffe e degli altri sei membri del Challenger. Qualche giorno prima del lancio dello shuttle, la sonda Voyager, cui sono state affidate le note di Bach e di Louis Armstrong a rappresentare la razza umana a eventuali intelligenze extraterrestri, incontra per la prima volta Urano. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Destini incrociati. È il 28 gennaio del 1986. Il Challenger è scoppiato nei cieli della Florida dopo soli 73 secondi dal decollo. A bordo, insieme a sei astronauti, anche una professoressa, Christa McAuliffe. Quel tragico evento lascia in eredità la missione Teacher in Space alla professoressa scelta come sua riserva, Barbara Morgan. Today is a day for mourning and remembering. Nancy and I are pained to the core by the tragedy of the Shuttle Challenger. We know we share this pain with all of the people of our country. This is truly a national loss. Ronald Reagan, presidente degli Stati Uniti, sta condividendo con la nazione il dispiacere della perdita di sette vite umane. Una tragedia mai vista prima. Parla di coraggio, di audacia, del lavoro fatto con gioia da chi ha deciso di dedicarsi alla scienza. L'America perde sette eroi. We mourn seven heroes: Michael Smith, Dick Scobie, Judith Resnick, Ronald McNair, Alison Onizuka, Gregory Jarvis and Christa McAuliffe. Parla alle loro famiglie, alla nazione e agli studenti che hanno assistito alla tragedia, dicendo loro che quando si è pionieri, e l'America lo è, così come le sette vite spezzate dallo scoppio dello shuttle, certi incidenti possono capitare, fanno parte del processo di esplorazione e di scoperta. Il futuro appartiene ai coraggiosi. Non ci si può fermare per questo. Quindi ci saranno altri shuttle, altri equipaggi, altri civili e altri professori nello spazio. Nor the last time we saw them, this morning, as they prepared for their journey and waved goodbye, and slipped the surly bonds of earth to touch the face of God. Lo shuttle fugge dalla scontrosa superficie della Terra e porta Christa McAuliffe e gli altri dell'equipaggio a sfiorare il volto di Dio, come conclude Reagan. La perdita è enorme, non solo per la famiglia, ma per l'America intera. Il programma Teacher in Space aveva riacceso interesse nei confronti del programma spaziale ed ora tutti si sentono orfani, in particolare i suoi studenti. Lei era parte di noi, parte della nostra famiglia. E se tuo fratello o tua sorella muore, te lo ricorderai per sempre. Penso che sia una vera tragedia. Penso che sia la cosa più tragica dopo la morte di Kennedy. Barbara Morgan al momento dello scoppio si sente mancare. Con Christa se ne va anche un pezzo di lei, delle sue speranze. L'ha seguita fino alla mattina di quel martedì 28 gennaio, quando Christa e gli altri hanno consumato la loro ultima colazione a terra prima di salire sulla navicella. I ricordi di condivisione, le risate, le preoccupazioni per quelle lezioni da fare dallo spazio affiorano in un istante. Al funerale si stringe con la famiglia di Christa. In fondo anche lei ne era entrata a far parte. Dick, Mike, Judy, Elle, Ron, Greg, and Christa. Your families and your country mourn your passing. We bid you goodbye. We will never forget you. Sono due i luoghi in cui è sepolta Christa McAuliffe. Uno nel New Hampshire, a casa vicino ai suoi cari. L'altro nel memoriale allo Space Shuttle a Darlington, insieme agli altri 6 compagni di viaggio, l'altra sua famiglia. L'eredità lasciata da Krista è enorme, così come il suo insegnamento. Sembra ancora di sentire la sua voce, la sua speranza. I touch the future. I teach. Il programma Teacher in Space è ora nelle mani di Barbara Morgan. Spetta a lei portare avanti l'entusiasmo che ha condiviso con Krista durante le fasi di preparazione. Spetta a lei raccoglierne l'eredità. Lei è una giovane professoressa, crede nelle sue capacità, ma si sente persa senza Krista. Dopo quell'esperienza, decide di tornare a casa nell'Idaho e di ricominciare la vita di prima. Il caso l'ha portata ad incrociarsi con un evento più grande di lei. Nel frattempo, le missioni spaziali si susseguono, crolla il muro di Berlino e America e Russia collaborano sul fronte dell'esplorazione spaziale. Alle soglie del nuovo millennio, come si fa con tutte le date importanti che si rispettino, Barbara fa il bilancio della propria vita. È il 1998 e la NASA la chiama per coinvolgerla a 12 anni di distanza dal disastro del Challenger in una nuova missione. È un po' come se Krista tornasse a sorriderle. L'occasione di salire di nuovo sullo shuttle arriva con la missione dell'Endeavour del 2007, a 20 anni di distanza. Ci sono state così tante persone in tutti questi anni che hanno lavorato duramente per portare a termine il lavoro di Krista McAuliffe, la nostra prima professoressa nello spazio. Non è più solo una professoressa, per quanto essere solo una professoressa non sia facile, ma è qualcosa di più. Dopo anni di esercitazioni, è anche un'astronauta e salirà sull'Endeavour da professoressa astronauta e non da civile come Krista. Nel 1986 un civile nello spazio era la novità. Nel 2007 si pensa addirittura a un turismo spaziale. Ad inaugurare questa nuova forma di invasione è stato uno stravagante miliardario americano, Dennis Tito, che nel 2001 ha aperto la strada pagando 16 milioni di euro per un viaggio di andata e ritorno e una permanenza di una settimana nella Stazione Spaziale Internazionale. Di lì a qualche anno, Richard Branson, titolare del marchio Virgin, credendo nel nuovo trend, fonda la prima compagnia per trasporti turistici spaziali, la Virgin Galactic. I tempi sono decisamente cambiati, ma il ricordo di Barbara di quei giorni al fianco di Krista è intatto, anche adesso che si sta preparando per una nuova missione. Lei è sempre qui con me e mi segue ogni giorno del mio allenamento e mi ricorda sempre di focalizzarmi su ciò che è importante, i nostri bambini, la nostra dignità, i nostri colleghi e mi rende un po' triste parlare di questo, ma quando partirò lei sarà là con me. L'Endeavour parte l'8 agosto del 2007 dal Kennedy Space Center con 7 astronauti a bordo, tra questi Barbara Morgan come specialista di missione. Era stato programmato per il 28 giugno, ma poi viene fatto slittare. Questi ritardi ricordano molte cose a Barbara, che sta per compiere il suo destino e allo stesso tempo sta per compiere anche quello di Krista McAuliffe. 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. And liftoff. Questa volta tutto procede per il meglio. Barbara Morgan riesce a decollare, con lei tutte le esperienze fatte quel lontano 1986. Giovedì 16 agosto, nell'undicesimo giorno della missione, Barbara si mette in contatto con alcuni studenti in Canada e tiene una delle sue lezioni dallo spazio. È così emozionante. Il programma Teacher in Space è vivo e con lei anche il ricordo di Krista. Come da tradizione, per tutti i voli NASA a partire dal Gemini, ogni giorno l'equipaggio ascolta un brano musicale scelto da un astronauta che per lui ha un particolare significato. Quel 16 agosto è la volta dei Foo Fighters con Times Like This. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.